Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Fra le varie conoscenti di Nunzio ce n'era una, vedova sui 21 anni, di nome Assuntina. Pure vedendola spesso, io non avevo mai notato che era più bella delle altre comari che frequentavano casa nostra. E la sola distinzione che me l'aveva fatta notare fra le altre, e per cui forse mi ero mostrato meno ruvido verso di lei, era che in seguito a una malattia sofferta da ragazzina camminava zoppicando un poco. Questa sua inferiorità, ai miei occhi scettici e scontrosi, appariva piuttosto una grazia, tanto più che lei, per una sua vanità di creatura elementare, godeva spesso di atteggiarsi a pose d'inferma piena di malinconia, sebbene ormai nel suo corpo fiorisse la salute e l'esuberanza della gioventù. I suoi parenti, le amiche, eccetera, per consolarla del male sofferto e poi della vedovanza, l'avevano sempre viziata con riguardi speciali e carezze, ed essa era cresciuta con certe maniere indifese e morbide, simili ai languori orientali di una gatta preferita. Il suo corpo, benché di statura piccolina e di ossa minute, era ben fatto, piuttosto formoso, ma di questo, ripeto, io non me n'ero mai accorto. A me essa pareva un fagotto, né più né meno delle altre femmine. Aveva la pelle bruna, piuttosto olivastra, e capelli neri lunghi e lisci. Dalla finestruola della nostra cucina, affacciata sul declivio della campagna, si vedeva un lungo viottolo che scendeva a valle, sinuoso come un fiumicello, e si distingueva pure, là in fondo, la casupola dov'essa abitava con i suoi parenti. Un pomeriggio mi trovai a passare davanti alla casa di Assuntina e la intravidi che mi salutava da dietro una finestra. Al suo saluto neppure risposi, ma mentre mi allontanavo udii il suo piccolo passo impedito che mi correva appresso e la sua voce che chiamava «Gerace! Gerace, Arturo!» Mi voltai «Buongiorno!» e la incominciò. «E come mai da queste parti? Da tanto tempo non v'ho più rivisto!» Era nuova questa sua usanza di trattarmi col voi. Rammentavo che in passato essa mi si rivolgeva con il tu. «Buongiorno!» le risposi. Non sapendo che cos'altro aggiungere, le detti un'occhiata dall'alto in basso con l'aria cupa e sdegnosa di una tigre che incrocia nella giungla una famiglia di leoncini. I suoi piedi nudi, sulla polvere asciutta del terreno, si erano infangati come avessero camminato nella mota, ed ella subito mi spiegò che era intenta a lavarsi i piedi allorquando mi aveva visto passare, e per raggiungermi era corsa via senza nemmeno asciugarli. Così, spiegando, abbassava lo sguardo su quei suoi piedi minuscoli in una maniera parlante che intendeva significare «Compatite questo fango, anzi vogliate gradirlo come un segno della mia premura verso di voi». Quindi i suoi occhi mi riguardarono, ancora mezzo abbassati, con un'espressione reticente fra di rimbrotto e di servitù, e disse «Mi preparavo proprio ad andare su alla casa vostra, ma tanto già lo sapevo che voi non ci trovate mai a quest'ora. Tempo fa, verso quest'ora, poteva capitare di rivedervi lassù qualche volta, e adesso invece mai, né a quest'ora né a nessun altro orario». La sua voce cantante, nel dire queste parole, pareva quasi lamentarsi, e richiamava, per le sue note di dolce viltà, certe voci che fanno le cagne o le asinelle quando accusano dei mali che tu non capisci. «Secondo me», soggiunse dopo un silenzio, «voi dovete tenere qualche fidanzata giù in paese che vi fa stare tutto il giorno fuori di casa». «No, io non tengo nessuna fidanzata», dichiarai con fosca alterezza. «Veramente? Veramente non la tenete la fidanzata?» «Io però, forse mica tanto ci credo». Osava smentirmi. Tuttavia, da parte di una femmina, una tale offesa non portava disonore come da parte di un uomo, ed io mi limitai a raccogliere un sasso e a gettarlo lontano minacciosamente, senza degnarla di altra risposta. «E se veramente non tenete la fidanzata, perché ve ne state via tutto il giorno? 100 volte si viene alla casa vostra e 100 volte non vi si trova, né alla mattina né al dopo pranzo. Sì, ma a voi che ve ne importa? A me, rispose lei. E adesso mica vi dovete offendere. Se vi offendete mi metto scuorne, non so più parlare. Però io non voglio dirvi bugia. Importare sì, un poco poco me ne importa. E il motivo è una segretezza mia di Assuntina, che Assuntina la potrebbe dire a voi solamente, a nessun altro la potrebbe confidare. Quasi quasi, se voi la volete sapere, ora stessa ve la dico, questa segretezza. Ma voi, se non la volete sapere, io non ve la dirò. Risposta, feci con le labbra una smorfia che intendeva chiaramente: per me, che diciate o non diciate, non me ne curo proprio. Fate come vi pare. E così? Devo parlare o no? Va bene, io parlo, perché tanto non posso più stare con questa spina nella gola. E incominciò a dire, cullandosi nella sua lenta voce: allora, ecco come sta il fatto, che quando io con tanto piacere vengo su al palazzo vostro, e ci torno sempre, ogni giorno, ci risalgo mattina e sera, eppure con questa gamba offesa. Non ci vengo per una ragione sola, ma per più di una ragione. Intanto, si capisce, ci vengo per l'amicizia di Nunziata, e poi per l'affezione al fratelluccio vostro, Carminiello, ma quello si capisce. Queste sono le verità conosciute da tutti quanti, però non sono la verità principale. La verità principale è un'altra. Ed è questa la segretezza mia che vi dicevo, che Assuntina, sua la casa vostra, ci viene principalmente per la speranza di rivedere a voi. A ciò il mio volto divenne di fuoco, Non avrei mai creduto che una femmina potesse fare con tanta naturalezza una dichiarazione così sfrontata. Ma lei invece nemmeno ne arrossiva. Anzi, al guardare le mie guance, fece un riso dolce, carnale, ed io intravidi le sue gengive rosa bagnate di un umidore che le faceva splendere i denti. E così adesso la segretezza mia è vostra e nessun altro l'ha da conoscere. Era già da tanto, da prima di Pasqua, che ve lo giuro, io tenevo questo pensiero. Voi l'avete visto che sempre al dopo pranzo io me ne sto qui da sola. E così ogni giorno fra di me mi metto a pensare e a ripensare. Voi siete uomo, si capisce, non pensate. L'unica idea degli uomini è di andarsene sempre girando. Se ne vanno per le cantine, per le osterie, essi mica pensano. E invece, le femmine pensano. Così detto, rimase di nuovo in silenzio, con l'aria quasi di pavoneggiarsi della sua mestizia. Restava là con gli occhi bassi, come una persona virtuosa. E intanto la sua manina scura si trastullava con un filo di coralli che le ornava il collo. Non sapendo che dire, io esclamai allora con irruenza aggressiva e spavalda: «Che bei coralli che avete!» «Sì, è vero, brutti non sono!» E la rispose piuttosto compiaciuta, ma tuttavia un poco mesta: «E mica tengo questi soli di coralli, ne tengo pure degli altri!» Poi la sua voce prese un suono sospeso, ammorbidito. «Ce li ho conservati a casa», mi informò. «Qua sopra nella cameretta mia. Se vi piacciono i bei coralli, veniteci una volta o l'altra, accomodatevi che io ve li farò guardare. Quando volete voi, una volta o l'altra». E spiò la mia faccia. Io non davo mostra né di gradire né di rifiutare quel suo invito complimentoso. Quasi a tradimento, allora, essa mi domandò: «E di qua adesso a quest'ora dove andate?» Io non seppi che rispondere alla sua domanda. In verità, non sapevo neppure io dove andassi, e precisamente non andavo in nessun luogo. «Ah, che a quest'ora fa caldo», riparlò lei, «e tutti dormono». Così dicendo, di sotto le palpebre oblunghe molto cigliate, che sembravano pesargli sugli occhi, mi volse uno sguardo che parlava chiaro, come se lei fosse un'odalisca ed io il sultano. E presomi per mano, con un sorriso importante e misterioso, mi trasse con sé nella casupola. Qua, sotto i miei occhi, per prima cosa finì accuratamente di lavarsi i piedi. Quindi si sfilò la collana di coralli che depose sul tavolino vicino al letto. E poi si sciolse dalle forcinelle la sua chioma ben divisa e liscia. Così quel giorno io ebbi la mia prima amante. Nel corso di tale ora famosa, ogni tanto, per caso, i miei occhi andavano sui coralli della collana deposta là presso il letto, e in seguito la vista dei coralli ha sempre richiamato alla mia mente la prima impressione dell'amore, con un sapore di violenza cieca e festante, di estate precoce. Non importa se quel primo sapore io l'ho imparato con una che non amavo. Lo stesso mi è piaciuto e mi piace assai. E ogni tanto la notte io risogno i coralli. Thank you. E così, pur non amando Assuntina, io ero contento di avere un amante e soprattutto fiero, tanto che mi sarebbe piaciuto di far conoscere la notizia all'intero popolo, fuorché al solo mio padre, con lui me ne sarei vergognato, non so perché. Assuntina, invece, come era naturale, non faceva che raccomandarmi un segreto assoluto, ed io mi assoggettavo a questo sacrificio, secondo le giuste leggi dell'onore. Però trovavo modo di lasciare intendere, con certi atteggiamenti di fatuità superiore, che nella mia vita c'era qualcosa. Una persona, in special modo, avrei gradito che ne venissi a conoscenza. Un pomeriggio risalivo il viottolo in compagnia di Assuntina e, al solito, ogni tanto, lanciavo un'occhiata di soppiatto verso la finestruola della casa dei Guaglioni, finché intravidi quella piccola ombra familiare che s'acquattava lassù, dietro la grata. Allora, senz'altro, mi affrettai a cingere con passione Assunta, e là, repentinamente, io che di solito non la baciavo mai, le scoccai un bellissimo bacio in pieno viso. A una cert'ora della mattina seguente, approdando alla spiaggetta dall'alto mare, ebbi idea di salire un istante a casa, non so se per cambiare un remo della barca o per altro simile motivo, e fin dal fondo dello spiazzo fui sorpreso da fiere grida femminili che provenivano dalla cucina, mescolate al pianto di Carmine. Giunto alla soglia della porta finestra, mi trovai dinanzi a una scena inusitata. In cucina, oltre al fratellastro che piangeva disperatamente nella sua cesta, vi erano la matrigna ed Assunta, e la prima, stravolta di furore, gridava contro la seconda come se volesse sbranarla. «Tu!» ruppe a gridare subitanamente alla sua amica. «Da me in questa casa non devi più fartici vedere!» Così gridando squassava il capo al modo atavico delle donne rissose nei bassi vicoli. «Io qua non ti ci voglio! In questa casa sono io la padrona!» seguitò addirittura fuori di sé e di un tratto fece per gettarsi addosso all'altra. Io però, fortunatamente, intervenni a tempo per impedirglielo e serrandola ai polsi la respinsi con forza contro il muro. Là, inchiodata, ella per fierezza non tentò neppure di dibattersi, ma io sentivo, attraverso i suoi polsi, tutti i suoi muscoli fremere, sviluppando una ferocia disperata, e le sue pupille in quel momento somigliavano proprio ai fuochi di due stelle misere e sublimi, sperse nella bufera. Bianca, fra i boccoli scomposti e incollati sulla fronte dal sudore, ella torse il viso da me, tendendolo verso l'avversaria, e le gridò «Vattene!» e aggiunse «Vattene, segnata da Dio!» Questa frase, segnata da Dio, è un motto di indegna volgarità usato nei nostri paesi da individui senza cuore per insultare gli storpi, gli sciancati e simili infelici. Ad un'allusione tanto malvagia, la povera Assunta scoppiò in singhiozzi, avviandosi con il suo piccolo passo difettoso verso la porta. Ed io, indignato, lasciando la brutita matrigna, uscii assieme a lei per accompagnarla un poco lungo la strada, come mi parve il mio dovere. Pur mostrandosi grata di questa mia premura cavalleresca, essa, tuttavia, appena fummo soli, incominciò a rimproverarmi le mie imprudenze. «Ah, se tu avessi usato la cautela che sempre ti raccomandavo, la matrigna tua non avrebbe mai sospettato di niente, perché non è maliziosa. E invece adesso, ecco il risultato, che quella, secondo me, ha scoperto tutto!» Tuttavia, pur essendo consapevole della mia colpa, io in cuore non avvertivo nessun rimorso, anzi un'allegrezza intima, trionfante, che mi faceva andare così leggero come se i miei piedi non toccassero la terra. Thank you. quasi senza accorgermene, avevo ripreso la via di casa. Era circa mezzogiorno. In cucina Carminiello dormiva placido nella sua cesta e la matrigna stava in piedi davanti alla tavola. Sulla tavola c'erano i soliti preparativi della pasta, rimasti interrotti per la scena di poco prima, e le mani di lei si muovevano debolmente su quella sfoglia di pasta, come fossero volenterose di occuparsene, ma non avessero forza di reggersi. Il suo volto era così bianco, fisso e stupefatto da far pensare a un malore grave. «Che farò di me? Che devo fare?» mormorò. E fra queste domande mi volse uno sguardo lacrimoso e sperduto, che pareva implorare da me aiuto o consiglio, come se io fossi Dio. Ma i suoi occhi erano diventati così belli in quel momento che io non badai più al loro dolore. In fondo al loro nero mi pareva di scorgere, come dentro due specchi fatati, dei lontani luoghi di luce, di assoluta felicità, e esclamai in uno slancio: «Sai che devi fare? Devi partire da Procida assieme a me, così non ti toccherà mai più di rivedere Assunta se tanto ti sta antipatica. Ce ne scappiamo insieme, io, tu e Carminiello, tanto», soggiunsi piuttosto amaramente, «mio padre non se ne importa di noi altri, ma lui nemmeno se ne accorgerà, è capace se noi partiamo. Andremo a stare tutti e tre insieme in qualche paese magnifico, lontano assai da Procida. Sì, te lo sceglierò io. E là, io ti farò vivere meglio di una regina». In un atto repentino, essa, alle mie parole, si era coperto il volto con le mani. Ma fu lo stesso visibile il violento rossore che la investì fino sul collo e sulle braccia nude. Per un poco non riuscì a rispondermi. Il suo respiro interrotto, al salirle per la gola, si trasformava in un aspro, selvatico lamento. Infine disse: «Artù, siccome sei ancora guaglione, Dio ti perdonerà le brutte cose che dici. Il male...» Stava forse per pronunciare il male che fai, ma dovette sembrarle una parola troppo severa contro di me, e non la terminò. Ed io, al suo rimprovero, invece di pentirmi, fu invaso da una rivolta piena di gioia che mi rese più di prima spensierato e pazzo. In verità, la sua voce, da dietro la mascherina delle mani, mi era giunta come un suono favoloso che tradiva senza rimedio, più ancora che l'indulgenza, l'angoscia di una rinuncia e insieme quasi il ristoro di una dolce gratitudine. Intanto, mentre io abitavo sotto lo stesso tetto di Nunz con l'animo di un reprobo a una corte celeste, un altro castello aveva preso a dominare la mia mente con un prestigio forse più fantastico ancora. Il penitenziario dell'isola, che sempre era stato ai miei occhi la triste dimora delle tenebre, d'un tratto in quell'estate si illuminò per me di un fulgore corrusco, come nelle metamorfosi dell'alchimia, dove dal nero si passa all'oro. L'estate quell'anno sembrava splendere inutilmente per Villa Gerace. Si assisteva a un fatto assolutamente nuovo nella nostra storia, e cioè che mio padre, in piena stagione estiva, trascinava le ore più luminose del giorno nel chiuso delle stanze, come se il tempo per lui rimanesse fisso a una perenne notte invernale. Egli rifuggiva con accanimento da tutte le occupazioni deliziose della bella stagione, che erano sempre state la nostra massima felicità comune, e il colore bianco della sua pelle, ai mesi di luglio e di agosto, mi dava un senso luttuoso e innaturale, come se assistessi a un qualche malsano rivolgimento del cosmo. Inoltre, per quanto facesse il misterioso, egli non seppe non tradirsi, e da certe sue allusioni io finì per intendere, senza più dubbio, la sua giustificazione arcana. Era la stessa, del resto, che io già presentivo. Qualcuno, caro più di ogni altro alla sua amicizia, trascorreva i propri giorni murato fra quattro pareti maledette. E dunque, egli come avrebbe potuto godere di un'estate che a colui era negata? No, egli bramava di imitare, ora per ora, il patimento del suo amico, e anzi avrebbe voluto, in un modo qualsiasi, meritarsi come un onore una condanna eguale, se non fosse che, con la privazione della libertà, avrebbe perduto ogni ultimo mezzo di comunicazione con lui.